miniatura perché molte cose le ho tenute conservate, però quelle che voglio vedere proprio in particolare ce le ho fuori. Perciò l'ho anche provato da poco, mi pare, c'era anche Giulio. Funzionante, perfetto, nuovo nuovo, grandissimo, come lui, Antonio Falconero, c'era Pino, che adesso era radioamatore, Vannino Pantera, che era radioamatore lo stesso, vabbè, Franco è rimasto sempre con noi, ma anche loro già si fanno sentire, ma ce n'erano tanti, c'era Giuseppino Trattore, lì, insomma, ce n'erano tanti, io frequentavo tutti, ma ero ragazzino, quindi ero sempre in movimento con la moto, poi quando ho avuto la macchina andavo a trovarli, facevamo pranzo in campagna, casini, insomma, un sacco di cose, insomma. Mi sono divertito in quell'era, non mi sono fatto mancare niente, tranquillo. Ciao Franco, buona cena, buon tutto, avanti Giulio. Ne abbiamo perso di ore di sonno in quegli anni lì, tutti quanti attaccati alla radio, ragazzi, sta chiacchierando, del più e del meno. E vabbè, prima eravamo tanti, veramente, forse eravamo anche truppi. Oggi purtroppo ci siamo ridotti a un numero abbastanza esiguo, di conseguenza va bene lo stesso, non è che non ci divertiamo lo stesso, però prima a qualsiasi ora del giorno e della notte tu accendevi la radio e c'era sempre qualcuno, per modo da dire qualcuno, qualche ventina di persone in ogni canale, per cui non c'erano problemi di collegamenti eccetera. Vabbè, ci sono stati dei momenti molto piacevoli, dei momenti anche di malumore perché qualcuno alle volte bisticciava, però purtroppo la vita è anche questa, non possiamo farci niente. Avanti Emiliano. Io ultimamente, non so se la state utilizzando anche voi, sto usando quell'applicazione, Cipito, già mi aiuta a prendere sonno, allora, faccio un po' di ascolto la notte. E sono canali che arrivano anche a 80 persone comunque. Non è noiosa, anche se il baracchino è un'altra cosa. Ma io l'ho avuta, l'ho cancellata subito Emiliano, una cosa. Il baracchino è una cosa e il telefono è un'altra. No, non mi piace quell'applicazione. Mi sono dimenticato, Claudio, la cosa più bella che ho in assoluto, ok? Non sono riuscito ad averla quando lui è morto. Io ho la radio di Giancarlo Baffigo, che tu hai conosciuto perfettamente, l'armeria che c'era in Corso Vittorio Emanuele, lui era radioamatore, ed è uno standard base dei 2 metri, monobanda per i 2 metri, perfettamente funzionante. L'ho fatto revisionare, intanto è lucido il suo colore originale perché è autografiato eccetera, recuperato da una cantina tramite Sandro Tighe, che lo ringrazierò per sempre perché è una bellissima radio vintage, perfettamente funzionante, dove è quartata, quindi c'ha i quarti per le frequenze riservate ai radioamatori, proprio 144-146, non di più, e poi c'ha una parte dei quarti che è dedicata, ma c'è anche scritto, al VHF marino, quindi c'ha i canali, i quarti, canalizzata del marino, quindi fa il VHF monobanda amatoriale 144-146, da lì non si sposta, ok, e poi c'ha i canali principali, quindi il canale 8, il canale 12 mi pare, insomma c'ha i canali principali del quelli marini che esistevano un tempo, c'ha 3 strumenti bellissimi verdi, un monopolone grande e c'ha 5 watt e 25 watt, quella era di povero Giancarlo Baffigo, capito? E c'ho anche quella di radio. Sì, ce l'ho presente, la conoscevo quella radio, certo che la conoscevo, eravamo amici con Giancarlo, lui era appassionato di Leica, di fotografia come lo ero io, e ci conoscevamo anche per quello. Va bene, ne approfitto per salutarvi perché è arrivata la pizza, mia moglie sta urlando al piano di sopra, e va bene che me la mangio fredda. Comunque mi ha fatto piacere del cuore, ciao stasera, così è bello discorrere, è tutto così. Comunque, di nuovo, un salutone a tutti, ci risentiamo domani, e buon carico quando lo fate. Ciao, ciao. Scusate, anch'io vi lascio, vi sono a mangiare. Ciao a tutti, Giulio, Carlo e tutti. A presto, ciao, veramente una bella, un bel questo. Ciao Emiliano, ciao Claudio, a presto, quando volete noi siamo qua, ci fa solo che piacere, vai Giulio. Confermo, ci fa veramente piacere parlare con voi amici di Porto Torres, certo che sì, sperando di sentirci molto presto, il più presto possibile. Ciao Emiliano, ti ringrazio per questo, ottima persona, per come ti conosco negli anni passati, e anche Claudio altrettanto, non si discute, ci mancherebbe altro, ottima persona anche lui, per cui è un piacere discorrere e chiacchierare con voi, sperando di sentirci il più presto possibile. Saluto a tutti, buona cena e buonanotte, grazie del questo a tutti. Vai Claudio. Ok, certo, un attimo di bianco, molto bene. Sì, beh, abbiamo fatto un po' di ricordi, ma io ne ho tante di radio, degli amici appunto che ho conosciuto. Questa che ho di Giancarlo, ero ragazzino quando io appunto l'ho conosciuto, anche perché era amico di mio cognato era vice urbano, quindi stava in piazza. A volte si fermava lì nel negozio a parlare con lui, c'era un bellissimo negozio di caccia, pesca e sport, quindi ben fornito, lui era già radioamatore di quei tempi, forse poco ricordato, poco conosciuto, è morto anche giovane. Io ho questa radio grazie a Sandro, che un giorno è venuto a casa, mi ha detto ti devo portare un residuato bellico di una persona che conosci, io non so manco né come si usa né niente, ma poi per come sono un po' disordinato io magari fa fine brutta, voglio che la tieni tu. Ma la portata ci è rimasta veramente entusiasta, ce l'ho da tantissimi anni, è perfettamente funzionante e niente, ho fatto revisionare tutto il cassone perché è abbastanza grande, due volte del, allora erano queste radio così, due volte del 140 come altezza, come larghezza, sia anche più grande, però una bellissima radio, veramente bella da vedere. Mi pare che avevo già anche mandato una foto un giorno, accesa, c'ha degli strumenti bellissimi, Smitter, il modulatore e poi non so che cos'è quello che c'è al centro, ma forse lo strumentino per le stazionarie, che si illuminano di verde, ma è veramente, c'ha un manopolone grande, tipo VFO, no? Però una manopola grande, enorme, con tutti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 12 canali, 12 quarti, c'ha 6 quarti per le VHF amatoriali e 6 quarti per i canali marini, è veramente una bellissima radio, ma soprattutto dei bei ricordi, tutto qua, niente di particolare. Vai Giulio. Sono radio quelle da tenere, sono un po' particolari, non è la solita radio per la 27, per cui sono radio quelle da tenere, poi se è un regalo di una vecchia persona, è chiaro che uno se la deve tenere. Sì, no, io negli anni 70 avevo l'autoradio che faceva anche da CB, adesso non mi ricordo bene se era Vox o qualcosa del genere o qualche altra marca, ma forse era Autovox o qualcosa del genere, comunque non me lo ricordo più, stiamo parlando degli anni 70, non è che stiamo parlando di oggi, ed era una radio che funzionava bene, tanto infatti mi ricordo che allora io in quegli anni possedevo un 1100D o Claudio, e avevo l'antenna elettrica, no? E quando dovevo utilizzare il barattino, cosa facevo? Tiravo su l'antenna elettricamente e poi si innestavo un altro pezzo di antenna recuperata, proprio per cercare di attenuarla più o meno alla frequenza della 27, per cui anche quella era una bella radio, poi l'avevo data e tutto sommato me ne sono anche pentito, perché non era tanto il valore della radio ma quanto il fatto che oggi sarebbe stato un ricordo degli anni passati veramente, e cioè di 50 anni fa praticamente. Fate il conto, adesso io a febbraio faccio 50 anni frequenza e non sono pochi, febbraio 1972, febbraio 2022, 50 anni esatti. Avanti qua. Io sono entrato nel 74, nel 2024 faccio 50 anni anch'io. È così, bei tempi, belle cose, bei ricordi, io ho una passione indescrivibile, allucinante per la radio, ma la radio in generale, la 27 soprattutto. Io nonostante abbia fatto il passo che ho fatto, non ho mai mollato, sono sempre qui, faccio da una parte all'altra, c'è stato un periodo, c'è ancora un periodo di silenzio nelle bande amatoriali, ma comunque adesso voglio rimettere tutto in sesto, anche perché è giusto così, va bene così, ma quando uno c'ha la passione, io veramente da ragazzino ero molto più appassionato di adesso, però me la sono portata e va bene così, insomma. Non ci sono problemi, erano altri tempi, si studiava, si andava a scuola, io ho iniziato anche da ragazzino a lavorare, quindi mi potevo permettere qualsiasi cosa perché mamma mi dava carta bianca, la verità. Quindi avevo 18 anni, ho preso la patente, subito la macchina, anzi la macchina me la sono comprato prima di prendermi la patente. Guidavo un po' senza patente, quindi ero un po' un pizzino bisogno. Perciò insomma ne ho fatto di corte di crude, ma grazie a Dio siamo andati avanti, stiamo bene, continuiamo la nostra vita. Dobbiamo solo pensare a quello che sta più in alto, sino a quando ci lascia, pure pazienza. Qua c'è tutto scritto, intanto non c'è problema. Le radio vanno a una persona che io stimo tantissimo, quindi dal momento in cui vengo a mancare all'improvviso, mia moglie sa già che cosa deve fare. Deve solo fare smontare tutto e farglielo portare via. Questa è una promessa che ho fatto e la mantengo, non ci sono problemi. Tutto qua. Molto bene, sono le 20.08, a me mi dà forse 09, non lo so, comunque. Anche noi, ha chiamato mia figlia, mi ha detto cosa avrete preparato? Niente, stiamo aspettando a te, perfetto, l'hanno preparata niente, e prendo le pizze, va bene, quindi sto aspettando anch'io di mangiare la pizza. Ok qua, e invece proprio nel frattempo che tu facevi passaggio qui è arrivata la chiamata da parte di mia figlia, dalla parte bassa della casa, per cui ti dovrò lasciare, vabbè, pazienza, avrei preferito chiudere così contemporaneamente proprio quando arrivava la pizza anche a te, così almeno avremmo chiuso e non ti avrei lasciato solo. Va bene qua, mi dispiace, devo lasciare per forza, devo andare a cenare. Grazie per la chiacchierata, stasera è stato molto bello, per cui non c'è problema, e sperando che continui sempre così. Ciao qua, buonanotte e buona cena, ciao. Ciao Giulio, mi ha fatto piacere, buona cena anche a te, saluti a casa e ci sentiamo, anch'io mi sposto, ciao, buona serata. La Juve ha perso, è 1-0, ciao, ci sentiamo. Ehi, già le sta bene, tanto guarda, secondo me ti avevo già detto che manco il quarto posto fa, ciao, buona serata Giulio. Ok, ciao.